Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi sono tornati alla memoria molti pensieri legati alla mia vita, alcuni piacevoli, altri meno ovviamente, ma tutti erano legati a una partenza. Partire, salpare alcune volte da porti più affollati, altre volte da luoghi più intimi. Anche quando prendevo il treno o la corriera per andare prima a scuola e poi in università, quando prendevo la bici per andare al lavoro era partire, no? Alla fine della storia ho capito questo. Tutte le volte che ti chiudi la porta di casa alle spalle vuol dire partire. E certo, per ogni andata c'è un ritorno, ma ogni volta è diverso. Mi chiamo Alessandro Blason, vivo a San Vito a Tagliamento, in provincia di Pordenone, sono felicemente sposato con due ragazzi, bambini, lavoro in un'azienda alimentare e poi come hobby facciamo dei corsi di scherma storica. Non mi piace viaggiare e non mi sento a mio agio durante i viaggi. In Italia la mia curiosità è sempre attiva. So cosa si nasconde dietro a tutte quelle facce, le voci, i luoghi, ma quando sono all'estero mi annoio. Non so più afferrare il significato delle cose attorno a me. Non ci capisco niente. Mi sento escluso. Federico Fellini. Sono le 16:07 minuti, oggi è mercoledì 1 di febbraio 2012, i giorni della merla sono finiti, ma non la neve. Milano, a parte che ormai a Milano adesso nevica in quel modo che la neve sale più che scendere, quindi già non vale più. Però si sta spostando, scusate, purtroppo questa ossessione per il meteo mi porta a guardare soprattutto in questi momenti compulsivamente le previsioni meteo. Ma tranquilli, è solo neve, è solo acqua ghiacciata. 349-238-6666. Questa puntata, e io ringrazio Alessandro che ha scritto il racconto che parla di partenze, di piccole partenze in realtà, di piccole partenze quotidiane. È una parte da un episodio che gli è accaduto, come tutte le richieste che vi facciamo e tutti i racconti che ci mandate. Un episodio che gli è accaduto nella fattispecie al lavoro, un giorno, da cui ha fatto partire una riflessione proprio sul partire, sulle partenze, eccetera, eccetera. Questo racconto mi ha fatto però riflettere su una cosa che è veramente un tabù culturale. Non credo riguardi Alessandro, che parla appunto di partire o non partire. Non so se lui è uno pigro, se gli piace o meno viaggiare, glielo chiederò più tardi. Il piccolo tabù culturale che però vorrei infrangere oggi riguarda proprio tutte le persone a cui non piace viaggiare. Ci sono poche cose, ci sono pochi argomenti, a parte quelli che hanno valenza legale o etica, sui quali è difficile prendere una posizione opposta dalla maggior parte delle persone. Viaggiare è una di queste. Non so se vi è mai capitato a una cena con amici, appena parte l'argomento viaggio è tutto un io sono stato di qui, io sono stato di là, beh, viaggiare, io viaggerei tutta la vita, io farei un anno sabbatico, io faccio almeno i miei due viaggi all'anno, guarda, non me li toglie nessuno, perché girare per il mondo è utile, perché ci serve per allargare le prospettive e tutte quelle menate, che sono verissime per la verità, però vale anche che a qualcuno semplicemente non piace viaggiare, cioè che non abbia voglia di spostarsi da casa, e questo è veramente un piccolo tabù culturale, perché immediatamente c'è un giudizio nella persona che sente dire a qualcuno: sai che a me viaggiare però non interessa un granché. 349-238-6666, oggi è il giorno della vostra rivincita. Se semplicemente amate stare a casa, fare un lavoro semplice o complicato che sia, e durante le vacanze state a casa o andate in campagna, ma non fate viaggi transoceanici e non pensate che nello scoprire culture diverse ci sia nascosta una qualche verità, 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. C'è una grande novità, c'è una grande novità, voi siete qui? Che non è così grande in realtà. Sia io che Tiziano Bonini abbiamo già un profilo Twitter, ma da oggi abbiamo creato un profilo Twitter del programma che è Voi siete qui, Radio 24. L'hashtag, che per chi non sapesse cosa fosse, è semplicemente il cancelletto che inquadra l'argomento di cui stiamo parlando, è Voi siete qui, banalmente, perché la fantasia non ci pecca praticamente mai. Se avete voglia quindi di raccontare delle cose, molto semplicemente le cose che chiediamo anche attraverso Twitter, siamo lì. Se no, il solito 349-238-6666. La vendetta di tutti quelli che odiano viaggiare. Vi faccio un esempio. Gabriele: sono totalmente orso, sto bene nel mio tram tram, nella mia comfort zone. Gabriele, guarda, ti ringrazio per il messaggio, però sei riuscito non è infilata una giusta, perché è scritto tram tram con la M e poi comfort zone con la N al, ed è il contrario, cioè sarebbe tran tran e comfort con la M. Guarda, va bene uguale, probabilmente ti sei sbagliato a schiacciare sulla tastiera, però semplicemente che ho avuto un'educazione complicata per quanto riguarda la grammatica. Francesca, non che io odi viaggiare, però mi infastidiscono tutti coloro i quali non amano viaggiare, ma che per infilare trofei si sbattono a destra e a sinistra per poi non fare altro che pubblicare aggiornamenti su Facebook. Beh, ovviamente Facebook è la patria delle cartelle Madagascar 2010, Malesia 1999 è un po' presto. A proposito di gallerie su Facebook, vi prego, abbiamo visto tutti che nevica, eh? C'è un sacco di neve fuori. Non caricate decine di foto di Milano sotto la neve o del vostro paese sotto la neve. Perché sapete cosa? È che una foto di un posto sotto la neve è sempre la foto di un posto sotto la neve. E quindi, anche se la fate con la quinta di un lampione tutto arancione con la neve sopra o di uno specchietto retrovisore innevato, è sempre una foto con la neve. 349-238-6666. Ancora, Isabella, io ho bisogno del mio habitat, per cui viaggio, ma purché la permanenza lo meriti. Perché dovrei prendere due voli in tre giorni? Se devo volare per soggiornare ci sto almeno un mese. Beh, Isabella, vuol dire che ci puoi stare. Temo però che dovrò piegarmi ad un Euro Disney primaverile. Pensatemi intensamente. E poi ci sono degli episodi che racconta Michela riguardo alla nonna che sono straordinari, ma ve li racconto dopo. Perché è vero che un po' le nonne sono: ma dove vai? Ma perché vai fino a Roma? Ma nonna, a Roma, prendo un treno, ormai in 3 ore sono là. Ma c'è tutto qui quello di cui hai bisogno, perché devi andare là? Ecco, le nonne sono l'esempio del: ma non mi piace viaggiare e non me ne vergogno. 349-238-6666. Si parla di partenze, questa è la storia di Alessandro. La mattina esco di casa, accompagno mio figlio alla stazione, poi mi avvio in bicicletta verso il mio posto di lavoro. Un'abitudine talmente radicata e ripetitiva da diventare indegna quasi di essere ricordata. Oggi però c'è qualcosa di diverso. La mia azienda, ogni volta che ci sono dei nuovi prodotti da lanciare sul mercato, crea dei video promozionali da far vedere ai venditori. Gli attori sono sempre persone che lavorano nella ricerca o nello sviluppo dei prodotti. Il regista di questi video è sempre un ragazzo, pieno di vita. È uno che sa anche suonare l'ukulele in modo splendido. È un vulcano di idee. In realtà da ieri dovrei dire che era il nostro regista. Oggi, infatti, una volta arrivato in ufficio, ho scorso le mail ricevute. E una arrivava proprio da lui, dal regista. Ero sicuro contenesse qualche nuova idea per il prossimo video. L'ho letta tutta ad un fiato perché, fin dalle prime righe, mi era parso di sentire delle note diverse dal solito. Scriveva riguardo l'ultimo lavoro effettuato con noi, ma poi, dopo un semplicissimo punto e a capo, cominciava una sfilza di saluti e ringraziamenti. Se ne andava. Salpava per un altro posto. Il ragazzo che faceva il regista era un ragazzo normalissimo e il contatto era esclusivamente professionale, cioè lo vedevo quando veniva qua a fare film e basta, quindi è una cosa proprio molto molto superficiale, e la cosa che mi ha impressionato è stato l'innesco che questa email ha dato a tutta una serie di pensieri proprio sul concetto del partire, eccetera eccetera. È stato come il crollo improvviso di una diga. Una semplice comunicazione aveva scatenato in me una reazione a catena. Lui lasciava questa esperienza, partiva, un gesto semplice, comune nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. Però stranamente mi aveva colpito più di altri. Forse quel momento lì, da solo in ufficio senza nessuno, era uno di quei famosi momenti in cui una strana luce illumina i fatti e li fa apparire in modo diverso. Come se ogni cosa che viviamo avesse un suo significato superficiale e uno molto più profondo. E ho pensato, in fondo noi è come se partissimo tutti i giorni. Fin dal suono della sveglia iniziamo la nostra sfilza di azioni che facciamo quasi in automatico e che non vale nemmeno la pena ricordare. Cerchiamo di ricordare altre cose, quelle che reputiamo importanti. Oggi per me partire è una di quelle cose. E non fraintendetemi, non sono un individuo patologicamente nostalgico e queste considerazioni non venivano solo dal fatto che avremmo perso il nostro affezionato regista. No, mi sono tornati alla memoria molti pensieri legati alla mia vita. Alcuni piacevoli, altri meno, ovviamente. Ma tutti erano legati a una partenza. Partire, salpare, alcune volte da porti più affollati, altre volte da luoghi più intimi, isolati. Anche quando prendevo il treno o la corriera per andare a scuola, all'università, quando prendevo la bici per il lavoro, era partire. Alla fine della storia ho capito questo. Tutte le volte che ti chiudi la porta di casa alle spalle, vuol dire partire. E sì, certo, per ogni andata c'è un ritorno, eppure ogni volta è diverso. Il viaggio più importante, beh, la luna di miele, il primo viaggio in assoluto di una certa distanza, perché è stato in Islanda e la prima volta che ho preso anche l'aereo, quindi insomma non è stato un viaggio, almeno per quanto riguarda l'aereo, proprio così divertente, però insomma dopo mi ci sono abituato, ecco. È come per i viaggi veri. Ogni volta che si torna a casa ci si racconta di tutto. Gli aneddoti più divertenti, le esperienze vissute, le persone incontrate. E lo stesso succede ogni giorno nei nostri viaggi più piccoli, quelli di cui vi parlavo prima. Quelli che ormai sono diventati insignificanti perché sono solo routine. Oggi è il 5 ottobre del 2011 ed è una data come un'altra. Adesso, tra 5 minuti, inizierà la mia giornata lavorativa. Ecco, sono partito. Sto viaggiando in mezzo alle persone nella mia azienda. Poi però viaggerò tra le persone della mia città, poi tornerò a casa e con la mia famiglia ci racconteremo i nostri viaggi, per aguzzare la vista e cercare qualcosa di diverso che ha ogni viaggio. Sì, io sono in viaggio, ma in fondo sono qui. Save your breath, I don't need an answer. You don't know what you've done. When I ask you, I hold my breath till I go. Una volta sono stato in Messico per 2 settimane. Mi sono fatto gran parte dello Yucatan. Sono passato per il Chiapas e poi sono arrivato fino alla costa del Oaxaca, scritto Oaxaca. È dove c'è Porto Escondido, per essere chiari. Viaggiavo solo la notte, in pullman scomodissimi, dove dormire è più o meno impossibile. Il tutto per non perdere le giornate e riuscire a fare e vedere più cose possibili. 14 giorni pienissimi, senza mai la possibilità di riposare. Se avessi tenuto quel ritmo a casa, sarei probabilmente morto. E invece sono tornato che sembravo ringiovanito di 3 anni almeno. E quello che dice Alessandro nel suo racconto è vero. È vero, cioè ogni viaggio, sia i piccoli spostamenti che facciamo giorno per giorno, sia i viaggi veri e propri, quelli che siamo fortunati, quelli che se siamo fortunati riusciamo a fare durante le vacanze, ecco, quei viaggi lì, in qualche modo, ci rendono diversi. Ed è tristemente vero anche quello che dice sui ritorni, cioè ogni viaggio ha una sua conclusione. Questo però, secondo me, è vero fino a un certo punto, cioè, voglio dire, non vale per tutti. Ci sono persone per cui il viaggio corrisponde alla fine a tutta la vita, a tutto l'arco della vita. Una volta sono stato in Tunisia, sono arrivato a Tunisi e ho cominciato a scendere giorno per giorno verso sud, per raggiungere quello che realmente mi interessava, il Sahara. Ecco, a proposito di viaggiare o non viaggiare, non so se siete mai stati in un deserto. È una di quelle cose che in parte vi cambia la vita. Che lo so, che magari sembra esagerato, però vi assicuro che è proprio così. Anzi, è meglio, perché da una parte avete davanti agli occhi un luogo che è esattamente come ve lo siete immaginati per tutta la vita. Cioè, è proprio come lo disegniamo da bambini, o come l'avete visto sulle riviste, nei libri o in televisione, no? Eppure, allo stesso tempo, è una visione completamente nuova. Non lo so, perché non c'è un modo per dirlo. Dune di sabbia aperti d'occhio, una roba che fa quasi male agli occhi. E lì, facendo una di quelle gite da turista, che quelle che fanno tutti, no? Quelli che vanno nel Sahara. Cioè, 10 km a cavallo, nel luogo più sconfinato che i miei occhi abbiano mai visto. Ecco, lì ho conosciuto un ragazzo di Trieste. Si chiama Roberto. Roberto ha 42 anni, ma sembra un ragazzino. Roberto è uno di quelli che ha fatto tipo un patto col diavolo, probabilmente, e sembra non invecchiare come le persone normali. Ecco, forse il motivo di questo è proprio il suo lavoro. Roberto fa la guida. Da ragazzino si era appassionato di macchine e di motori. E poi dopo una decina d'anni, dopo aver scorrazzato in lungo e in largo per il Carso, ha scoperto l'Africa. E dopo un bel po' di viaggi da sole con amici, ha capito che la sua vita era lì. Quindi lentamente ma progressivamente ha abbandonato l'Italia e ha cominciato a passare più tempo nel deserto che a casa sua. Oggi sono più o meno 20 anni che Roberto è in viaggio. Vuol dire che sono 2 decenni che conosce gente, vede posti nuovi e raccoglie esperienze. Che, ok, certo, è bellissimo, eh? Però, quando l'ho conosciuto e mi ha raccontato, mi sono chiesto chissà se mi piacerebbe veramente vivere così. Come sarebbe tornare a casa dopo così tanto tempo? Forse non solo ogni viaggio ha le sue conseguenze diverse su ognuno di noi. Forse è proprio l'idea di viaggio ad essere differente da persona a persona. E non si tratta di meglio o peggio, sia chiaro. Sono proprio 2 cose diverse. C'è chi basta andare in ufficio ogni giorno, facendo le solite quattro vie per avere qualcosa da ricordare. C'è chi invece preferisce passare 20 anni tra le dune del deserto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au Brésil? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au Brésil? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Vedi che alla fine ci sono, o perlomeno prendono il coraggio mandando un SMS. Stare in casa in vacanza mi stare in casa mi piace, in vacanza avere niente, o non so leggere gli SMS oppure è scritto accavallato una parola con l'altra. Mi piace stare in casa, durante le vacanze mi piace stare in casa, i ritmi lenti sono il mio viaggio, ce l'ho fatto. Mi piace organizzare i viaggi, ma quando si avvicina il giorno mi passa la voglia, addirittura spero di perdere treni o aerei, poi parto e non vorrei più tornare. Vabbè, quello che non vorrei più tornare, Giorgio, lo capisco, è abbastanza normale, ma capisco benissimo anche il fatto del no, speriamo magari non prendo l'aereo e non parto, perché c'ho un sacco di cose da fare a casa. A me non interessa viaggiare, ho terrore che nel frattempo, in mia assenza, possa capitare qualcosa che cambia le cose, anche minime, e questa cosa mi urta. Gli unici viaggi che faccio sono per andare a trovare mia mamma, Ada. Leggerei solo questi messaggi, chiaramente, tra l'altro, Ada, esistono ottimi psicanalisti in giro. Io amerei anche viaggiare, ma mio marito no. E odio essere ghettizzata per non essere un viaggiatore. Eccola qua, vedi? Joe, che si firma sarà Giovanna, non può, a cena quando parlano di viaggi deve per forza cambiare discorso, perché altrimenti tutti la guardano come un imbecille solo perché a suo marito non piace viaggiare. Giovanna, orgoglio del non viaggiatore. Guarda, vale non viaggiare. Non sono un imbecille solo perché non viaggio. 349-238-6666. Però vorrei capire che viaggio si è fatto oggi Alessandro, visto che di fatto ogni giorno, mi sembra di capire, per lui lo considera un piccolo viaggio. Pronto Alessandro? Pronto, eccomi qua. Ciao, Matteo. Come stai? Bene, grazie. Grazie anche a te ovviamente per il racconto e per essere qui. Raccontami un po' del viaggio che hai fatto oggi. È una giornata normale come tutte le altre oppure... Oggi è una giornata normalissima, il viaggio è stato questa volta però in macchina, visto che ho avuto un po' di raffreddore tra sabato e domenica, ho detto beh, questi giorni qua è meglio stare tranquilli. Ricordami dove sei, scusami Alessandro. Sono al Tagliamento, è in provincia di Pordenone. Pordenone, c'è neve anche lì? Magari, no, non c'è. Niente? C'è, purtroppo... No, non c'è, c'è soltanto tanto vento, freddo, ma neve, nulla. Senti, nulla. Tu lavori per un'azienda di prodotti alimentari, giusto? Possiamo dire il nome? Sì, no. Un'azienda, sì, alimentare. Ok, sì sta per no, quindi in realtà, non me lo vuoi dire. Va bene uguale. Non vorrei fare pubblicità. Ok, è un'azienda però che si può permettere di avere un regista che fa pubblicità o video per sé, giusto? Sì, quindi esattamente. È un'azienda grande? Beh, è una media azienda che comunque ha saputo fare di diciamo necessità così, utilizzando persone molto semplici che così non sono conosciute, eccetera, eccetera, ha saputo prendere da loro il meglio e quindi ha saputo dare fare un qualcosa di diverso. Ecco. Mi piace perché Alessandro ti sei sintonizzato proprio sulle frequenze di Radio 24, hai fatto questa soletta di 20 secondi sulle qualità della tua azienda come se fosse come si chiama, Focus Economia ad esempio, Voci d'Impresa. Senti Alessandro, raccontami di questo regista, che fine ha fatto, l'hai più sentito? Nel senso, no, che la tua riflessione è partita da lì, giusto? Dal fatto che la persona se ne andava. Esatto, io non l'ho più sentito, lui mi ha lasciato un CD di musica con l'ukulele che lui ha fatto, dopodiché è partito, ma proprio partito, basta, non l'ho più sentito. Ma è partito, pensi, quindi, che se ne sia andato dall'Italia anche o semplicemente a fare un altro lavoro? Ma mi pare che se ne sia andato mi pare in Umbria, da qualche parte, ma dopo, sinceramente, essendo un vulcano di idee, va bene, se lui mi avesse detto oggi sono, che ne so, in Umbria, io sarei stato tranquillo che l'indomani non avrei più potuto fare affidamento su questo, perché era veramente... Da qualche altra parte. Sì, da qualche altra parte, proprio, quindi... Senti, dimmi invece, visto che siamo più o meno a metà della giornata, quasi oltre a metà della giornata, nel tuo viaggio di oggi ti è successo qualcosa di particolare, qualcosa degno di nota o qualcosa che ti abbia fatto riflettere? No, oppure oggi è stata una giornata normalissima, non ci sono state niente di particolare, salvo il fatto che sto parlando con te, e quindi è già un qualcosa di beh diverso, certo, questo immagino, no? Che non sia di tutti i giorni. Senti, un'ultima cosa, poi ti devo salutare, a proposito di viaggi, la racconto dopo, ma mi dici dove sei nella foto che ci hai mandato? Allora, sto tornando dall'isola, sono sul traghetto che porta dall'isola di Chiloé alla terraferma, quindi al Cile vero e proprio. Parliamo del Cile? Sì, siamo a nord della Patagonia. Ok, ok. Ed ero andato a vedere un'azienda che alleva salmoni, tanto per dire. Ok, ti ringrazio moltissimo, Alessandro, grazie ancora e buona giornata. Grazie a te Matteo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Io preferisco lo spritz e un panino col salame al bar sotto casa che lunghe code e stress da viaggio. Checco. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, Alessandro è su un traghetto o su una nave o su un battello, come ci diceva prima, tra un'isola di cui già non ricordo più il nome, però so che è in Cile. Ed è praticamente abbracciato al parapetto del traghetto, ha su una giacca vento azzurra con dei bordi rossi, un cappello da pescatore in testa abbastanza inguardabile, però che lo rende molto simpatico. Alle sue spalle c'è una parte di cielo azzurro e invece una parte di temporale. 349-238-6666. Sono arrivati anche già i primi messaggi su Twitter. Emanuele scrive: dovreste chiedere 70 euro a puntata. A chi dovremmo chiedergli, Emanuele? A te? Vabbè, le chiedo a te, Emanuele, dammi 70 euro a puntata. Però non ho capito perché. Ah, perché siete il sostituto del lettino del mio psicanalista. Vabbè, 70 euro già mi sembra una cifra buona. So che c'è gente che ne chiede 100. Il tutto chiaramente previa fattura, previa ricevuta. Matteo, oggi hai la luna storta? No, devo dire di no, però devo anche dire che non è il primo messaggio che mi arriva così, Ivan. Quindi è probabile che questa sia la sensazione che do oggi. Perché ho capito, lo so, perché me la sono presa con le foto della neve. Avete ragione. E probabilmente quelli che mi hanno dato questo messaggio avevano appena postato delle foto della neve su Facebook. Ma non che vi voglia meno bene per questo motivo, ovviamente. Massimo da Udine, l'azienda di Alessandro si chiama Bofrost. Sono quelli che fanno i surgelati. Ah, sono quelli che ti chiamano a casa. E una volta mi chiamarono, io dissi: guardi, non uso i surgelati perché non riesco a fare progetti per il futuro. E la signora ci rimase malissimo. Però in compenso, quando torno a casa, secondo me anche Alessandro Marco Tulli compra la Bofrost a casa. Comprerò roba surgelata. No, dice di no. Però una volta sono tornato a casa e c'era mia mamma al telefono. Ed era al telefono da, credo, 5-10 minuti. E chiacchierava amabilmente, credevo fosse con una sua amica, tipo la sua amica Laura ad esempio, e poi alla fine ha ringraziato, ha ordinato i prodotti che aveva bisogno, ha detto: mamma, sembra la tua migliore amica. Ma le signorine della Bofrost sono tanto carine, mi disse. E poi arrivava, abbiamo fatto una soletta, sì, o una marchetta, ma chi se ne frega, non ci arrivano soldi, quindi. E poi secondo me il fatto che oggi ho la luna storta si vede anche dai messaggi che arrivano, che hanno la luna storta. Scusa Matteo, parli di viaggiare nel mondo eccetera eccetera, ma se non conosci Aquileia e neanche la città stellata patrimonio UNESCO, si chiama Palma Nova. Questo perché, questa è gente che se la segna, eh. Perché non ti firmi? Ti prego, firmati, mandami un altro SMS e dimmi chi sei. È gente che si è segnata che tipo un mese e mezzo fa io dissi che Aquileia aveva la pianta stellata, ottagonale. Adesso arriveranno altri messaggi di insulti, ma tant'è. E invece era Palmanova. E mi ricordo che molti mi corressero all'epoca, però correggermi a distanza di un mese vuol dire veramente che siamo in due probabilmente ad avere la luna storta. Matteo, perché viaggiare se si vive nel posto più bello del mondo? Marco? Non lo so, dimmi te Marco, io non vivo proprio nel posto più bello del mondo, vivo a Milano che mi piace, ma dire che è proprio il posto più bello del mondo. Sono anni che non esco da Napoli, mi scrive Walter, anni, ma col couchsurfing ho il mondo in casa. Quindi Walter è uno di quelli che è abbonato a couchsurfing, non lo fa ma lo riceve, giusto? Quindi apre la porta e gente da tutto il mondo dorme sul suo divano. Tra l'altro è gratis il couchsurfing, quindi è proprio solo perché ha voglia di conoscere gente probabilmente. Non odio viaggiare, scrive Massimiliano, ma nemmeno lo amo particolarmente. 5 anni fa una ragazza che amavo moltissimo mi disse: il mio obiettivo nella vita è viaggiare. A me scoppiò una risata, penso che la nostra storia finì lì. E poi della serie messaggi fuori contesto, grazie mille. A Palermo splendido sole, il mio scaldabagno solare è a 31 gradi. Cos'è lo scaldabagno solare? È quella roba che sì, va bene, ho capito, di là è facile dire lo scaldabagno solare. Sarà una roba nera che metti sul balcone e che No, lo scaldabagno solare non è. Guardate che non credo sia una roba col fotovoltaico. È proprio una cosa che metti al sole e si scalda l'acqua. Secondo me, come si fa in barca? Cioè, c'è di solito un contenitore nero che si scalda, ma per irraggiamento. E poi ecco, scusate, è un altro messaggio polemico, ma però mi piace, mi sento un po' Cruciani quando sono polemico, eh? La neve non è acqua ghiacciata, mi scrive Mario da Genova. Quello è ghiaccio. La neve sono nuclei di condensazione. Scusa, Mario, aspetta, scusa, lo rileggo seriamente. La neve non è acqua ghiacciata. Puoi togliermi la base, Paulina. Quello è ghiaccio. La neve sono nuclei di condensazione dove si attacca l'acqua ghiacciata. Grazie, Mario. Adesso lo so e giuro non lo dirò mai più. Ma visto che per tutta la puntata si è parlato di gente che odia viaggiare, nella mia scarsa fantasia, quando penso a un viaggio, penso a una guida. Penso alla guida che tutti pensiamo quando pensiamo alla guida, la Lonely Planet, che tra l'altro si chiama così per un errore, doveva chiamarsi Lovely Planet, mi pare, e poi qualcuno lo scrisse male ed è diventata Lonely Planet. Voi sapete, se non lo sapete ve lo racconto brevemente, ci sono due persone che hanno fondato la Lonely Planet, sono marito e moglie, si chiamano Tony e Maureen Wheeler, hanno fatto un viaggio, qualcosa tipo... quasi 40 anni fa, credo fosse il 72 o il 73, e in più di un anno, forse due, hanno fatto da Londra all'Australia. Quando sono arrivati in Australia si sono accorti che non avevano più una lira e per tirare su qualche soldo hanno scritto una guida che si chiama Across Asia on the Cheap, che semplicemente raccontava il loro viaggio e tutte le cose che avevano fatto e davano dei consigli per chi però volesse fare quel viaggio al contrario, per chi voleva andare dall'Australia verso l'Europa. Vi leggo un pezzo che però è tratto dalla loro biografia, che si chiama Un giorno viaggiando, pubblicata da EDT, che è proprio l'inizio e spiega come tutto è cominciato. 27 centesimi. Lo dissi esaminando il patetico mucchietto di monete sul palmo della mia mano. Pochi minuti prima, con il nostro ultimo autostop, eravamo entrati a Sydney percorrendo l'Harbour Bridge. Alla nostra sinistra si innalzava la sagoma incompiuta dell'Opera House, affacciata sul porto. Mentre attraversavamo il ponte, Maureen si era chinata verso di me, nel sedile posteriore dell'auto, sussurrandomi all'orecchio quanti soldi ci sono rimasti. Era il giorno di Santo Stefano del 1972. Maureen aveva 22 anni, io 26. Fissammo lo sguardo su quel nostro misero mucchietto di monete. Eravamo lontani in mezzo mondo da casa, senza amici e senza un lavoro. Come avevamo fatto a cacciarci in un simile guaio? In realtà so indicare con precisione il luogo dove tutto ciò ebbe inizio. Fu una panchina di Regent's Park, nel centro di Londra, ed era un mercoledì pomeriggio, esattamente il 7 di ottobre del 1970. Nella vita a volte ci sono dei momenti cruciali. Quello fu uno dei nostri. Quel fatidico pomeriggio d'autunno, una settimana dopo l'inizio dei corsi, io ero andato in giro a cercare un cappotto nuovo. Era una giornata insolitamente calda per il mese di ottobre. Perciò, mentre tornavo al campus tagliando per Regent's Park, mi sedetti su una panchina a sfogliare la rivista automobilistica che avevo comprato. Adocchiato lo stesso posto al sole, c'era una ragazza. Bellissima, ovviamente. Sedette all'estremità opposta e tirò fuori dalla borsa un romanzo di Tolstoi. Al nostro primo appuntamento, quella sera stessa, andammo al cinema a vedere M.A.S.H. Ecco, quello fu l'inizio di un anno fantastico, anche se la serata si concluse con un imprevisto destinato a diventare abituale nella nostra storia. Infatti, tornando a casa da Leicester Square, al pensionato di Maureen, decisi di fare una strada nuova e mi persi. Ecco, è una cosa che mi accade regolarmente tuttora. No, I cannot wait to hear you call my name. A me non interessa viaggiare, conosco tre lingue, conosco sempre stranieri, eppure quando dico che non mi interessa viaggiare, gli amici mi guardano come una strana. L'ultimo messaggio che volevo leggervi però è di Michela, a proposito della nonna, ve ne avevo parlato prima. A 15 anni, primo viaggio da sola all'estero, deve andare in Germania. La nonna continua a fare telefonate per dissuadere me e quegli irresponsabili dei miei genitori. Mi racconta tutto ciò che c'è di brutto in Germania, tutto appreso dalla serie televisiva Derrick, di cui era appassionata. Mi raccomando però, quando parto mi dice non parlare con nessuno. ma soprattutto viaggio in Spagna con gli amici, partiamo baldanzosi, insomma, al ritorno a Imperia fanno un incidente, c'è un tamponamento, la macchina è distrutta, un grande spavento, però tutti bene. Al ritorno a casa mia nonna mi accoglie dicendomi: te stavi a casa tua, te succedeva niente. Cioè, se stavi a casa tua non ti succedeva niente. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Esiste un profilo Facebook di questo programma che vi racconto più o meno tutti i giorni. Sul profilo noi quotidianamente carichiamo quello che succede durante la puntata, che poi è il link al sito di Radio 24, perché è lì che trovate la foto ed è lì che trovate la mappa. Lo so che la mappa tutti i giorni ve la propino, però mi sta veramente qui. E mi sta qui perché quando l'ho proposta all'inizio anche Tiziano mi ha guardato un po' male. Però adesso, quando apri quella mappa e vedi i puntini blu di tutte le storie che sono arrivate, cioè, secondo me quella cosa lì ha un senso. Giulia, io devo prendermi la rivincita su tutte le gite scolastiche subite nei posti più noiosi, tra chiese e camminate chilometriche in branco. Io ho sempre odiato le gite, Giulia. E poi ringrazio anche e soprattutto la persona che mi ha mandato questo messaggio. Matteo, puoi dire a mia moglie che torno tardi? Edoardo d'Alessandria. Mentre sto per aprire la porta, mi accorgo di un foglio con una lista di nomi. È appeso in mezzo agli altri. È la convocazione dei giocatori per la selezione della rappresentativa nazionale giovanile, categoria allievi. Ci sono due nomi evidenziati. Portieri, Nicolò Casagrande, Rari Nantes Lavagna. Difensori, Marco Castagnasso, Rari Nantes Lavagna. Quel Nicolò Casagrande sono io, portiere del Lavagna.